Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ci occupammo una settimana fa di una categoria professionale di cui si parlava molto, che era quella dei camionisti e degli autotrasportatori. Oggi, seguendo un po' il filo rosso di quello che leggo sui giornali, quello che sentiamo riguardo alle proteste di categoria, alle liberalizzazioni, alla questione economica e finanziaria, vorremmo però da un punto di vista emotivo, personale, di analisi sociale, di scandaglio dei ricordi, parlare di un'altra categoria professionale, che è quella dei farmacisti. Farmacisti e farmaciste. Esiste un luogo comune legato ai nostri più fanciulleschi ricordi, alle nostre prime letture, alla nostra infanzia, che le figure chiave che regolano la vita di un piccolo centro, un agglomerato sociale, siano appunto il sindaco, siano il parroco, l'autorità spirituale, il potere temporale, e il farmacista. Perché il farmacista? Perché il farmacista era in una società primaria colui che un po' assolveva quelli che erano i bisogni, i desideri, le attese riguardo all'aspetto corporeo, al benessere, che sono altrettanto importanti quanto la vita civile, quanto appunto la vita spirituale. E quindi in questo triunvirato, attraverso queste tre persone di potere, si snodavano comunque tutti i rapporti di una piccolo centro di persone socialmente unite da vincoli di territorio, di parentela, di comunanza di interessi. Poi il mondo si è allargato e anche le farmacie sono cambiate, anche i farmacisti sono cambiati. Quanto rimane però nella vostra esperienza quotidiana e personale il rapporto con il farmacista? Oggi se ne parla molto nelle mutazioni, nelle variazioni, nelle liberalizzazioni, quanto poi la scelta di un farmaco, la scelta di una terapia o il consiglio riguardo un proprio stato di malessere o di benessere sia affidato a magari circostanze meno legate a un rapporto personale. Uno cerca in internet, uno viene sollecitato da una pubblicità, ci sono riviste specializzate che sembrano la Bibbia dell'ipocondriaco: per ogni malattia, per ogni malessere, per ogni cambiamento di stagione esiste la ricetta scritta. Ma è sostituibile il rapporto con una persona del quale si ha fiducia personale particolare? Sotto la farmacia, sempre la stessa farmacia, una farmacia legata al nostro quartiere, al luogo dove viviamo, oppure al contrario, una farmacia di passaggio. Sono le farmacie nelle stazioni, le farmacie negli aeroporti, sono quelle in cui ci si ferma fugacemente colti da uno stato di malessere e si chiede a una persona sconosciuta qualcosa che ci permetta di tirare avanti mezza giornata, di concludere quell'impegno di lavoro o di darci il necessario presidio per quel preludio amoroso che ci apprestiamo a compiere. 800 24 00 24, oggi parliamo di farmaciste e farmacisti. Dottor, che me la si ringrazio, che c'è? Non ci spicci, tu segna che poi facciamo tutto quanto un conto, va bene? Senti, perché mi presti 10 sacchi? Sono rimasto senza benza, c'è la macchina ferma qua, dai. E poi ti ritorno. Dottor, senta, se passa il bidindo che dice che sto a casa del patata, se mi trovo a casa del patata significa a casa del zagaio. No, sto a casa del mandrillo, capito? Ciao dottor. Carlo Verdone ha fatto una serie di sketch in cui rappresenta alcuni personaggi classici, naturalmente appartenenti a un'umanità estrema, che vanno dal farmacista. Perché? Perché dal farmacista si va anche in situazioni di gestione, di alcune situazioni difficilmente gestibili. Il tossico che va dal farmacista è una figura chiave, una figura forse un pochino più legata a una forma di tossicità legata all'eroina, legata al bisogno del buco, che oggi probabilmente è in lieve flessione, poi vedremo se sì, se no, in che maniera, rispetto ad altre forme di dipendenza. Però il tossico andare in farmacia era un classico, perlomeno rappresenta un classico, il motivo per cui certe farmacie sono dovute attrezzare per avere maniera di fornire a questo tipo di clientela in maniera veloce e sicura soprattutto per loro. Poi esiste un altro tipo di attenzione al farmacista. Voi direte: ti fermi subito alle circostanze chiave più legate al paradosso, legate alla facezia. Sì, perché intendo fare questo tipo di approccio, poi entriamo nello specifico anche riguardo ai problemi della categoria, anche riguardo alle tensioni che attraversano questa categoria. Però mi piace un'entrata morbida. Ne servirebbero 4, anzi famo 5 profilattici. Ho caricato uno sul lungo della fine del mondo, che avendo short, sguardo ambico, gamba lunga, due bocce che pare che gli schioppano. Mi sento terribile stasera. Che dice, 5 ma bastano? Credo che per 2 avanzare. Stasera sono tremendo. 2000. Senta, ma se non mi bastassero, lei fino a cura sta aperto? Fino a 1. Casomai sono, eh? Mi sento un macello stasera. Ciao a te. Soprattutto chi ha vissuto le pulsioni post-adolescenziali in piccoli centri provinciali sa quanto la richiesta del presidio amoroso sia uno dei momenti che ci fa avere un impatto emotivamente più forte con il farmacista o con la farmacista. Avveniva nelle mie lontane contrade che scegliessimo farmacie a Concia, in cui a questo uso, ma soprattutto negli anni 70, fine anni 60, diciamo anni 70, adesso non esageriamo, 70, anzi più 80 che 70 forse. C'erano farmacie con delle signore farmaciste e poi anche amiche di famiglia, quindi uno mai avrebbe osato andare a loro a chiedere il nominabile oggetto, che ai tempi non erano esposti in maniera così spudorata, ma stanno in un cassettino nascostissimi. Bisognava addirittura, c'era un fogliettino allegato alla scatoletta, ho scritto: per le prossime richieste discrete date questo al farmacista. C'era scritto: scusi, vorrei una confezione di profilattici numero tal dei tali, capito? E uno andava col fogliettino in mano, sperando che non accadesse mai di essere riconosciuto da persone di famiglia. Si sceglieva la farmacia in cui ci fosse una sorta di monatto con una gabanella marrone adeguato a questi indegni commerci, capito? E naturalmente era sempre occupato a vendere clisteri su poste, e uno cercava il momento libero di questa persona per andare lì e domandargli questa cosa, e lui ovviamente ad alta voce, sbandierando tutta la farmacia, dava notizia di quello che acquistavate. Poi c'era la macchinetta automatica, i primi distributori automatici che erano piazzati dalle parti della stazione in luogo abbastanza riservato. Uno andava lì timidamente, naturalmente si era fatto una tascata di monete da 100 lire per poter prendere la scatoletta velocemente. La macchinetta non funzionava mai, quindi uno doveva andare dentro, usciva fuori con grande clamore sempre il solito signore, ci metteva mezz'ora, apriva, chiudeva, quale vuole questo, con un capannello di amici che stava all'intorno a guardare, perché allora ci si vergognava di fare certi acquisti. Oggi naturalmente non è esattamente così. Tommaso, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Stai in motocicletta? Sì, ora spengo. Ho chiamato perché io sono un farmacista. Ne avevo una in dotazione, la tenevo nascosta, ma cominciamo con lei. Io sono un farmacista, lavoro a Pisa in una parafarmacia dentro la stazione ferroviaria. Fantastico. E volevo appunto riportare la mia esperienza. Io lavoro da agosto e ho scoperto all'interno di questa parafarmacia che uno dei prodotti più venduti è proprio un integratore che serve per migliorare le prestazioni maschili. Ecco. Cioè un integratore nel senso un farmaco o un parafarmaco? No, è un integratore, è di libera vendita senza obbligo di ricetta. E tutti chiedono questo integratore? Sì. Che tipo di, diciamo, di clientela chiede l'integratore? Praticamente qualsiasi, a volte anche donne che lo cercano per il compagno. Beh, oddio, la città della Torre Pendente, non vorrei adesso fare allusioni di tipo geografico, ma probabilmente ci sono delle circostanze geografiche che richiedono questa integrazione. Non lo so, adesso non vorrei, i pisani sono chiamati a rispondere a questa notizia che ci dà lei. La parafarmacia della stazione di Pisa vende un integratore malandrino che è chiaramente destinato a quell'uso, non c'è possibilità di equivoco. Benefico, che migliora l'affinità di coppia anche. Allora, resti lì. Posso chiedere una consulenza, Tommaso? Resti in linea. Dunque, l'ospite con studio è la dottoressa Cristina Barletta. Buongiorno Cristina Barletta. Buongiorno a tutti. Cristina Barletta, per chi conosce la mia biografia online, sa che su Facebook un giorno io mi trovavo boccheggiante alle parti di Piazza della Repubblica, perché fui colto da malore sotto una pioggia torrenziale, mi salvò la vita le proprietario dell'antica premiata farmacia Sorelle Barletta di Piazza La Repubblica. Mi presero boccheggiante, mi portarono all'interno della farmacia, mi provarono la pressione, mi cosparsero di unguenti medicamentosi e poi scoprì che erano due melogmani. Da allora passo sempre, ogni volta che vengo alla radio, a quella farmacia. Quindi oggi la dottoressa Barletta, che poi è una valente farmacista da generazione, mi pare, sei figlia di farmacisti. Quindi sei esattamente il completamento che cercavamo rispetto a Tommaso, farmacista di parafarmacia da poco tempo. Corrisponde a realtà che la farmacia oggi, luogo in cui si venda di tutto, uno dei presidi più venduti sono proprio questi integratori di compattezza virile, chiamiamoli così. Magari non proprio tra i presidi più venduti, però sono molto venduti naturalmente. Noi vendiamo anche altro, però chiaro. Posso capire che, ecco, la parafarmacia, soprattutto situata nella stazione, proprio per il luogo che è affollato di passaggio, possa vendere soprattutto questo tipo di integratore che aiuta, funzionano benissimo. Tu hai capito di cosa si tratta? Sì, assolutamente, perché le vendiamo anche noi. Non magari, ecco, non è il più venduto, però sicuramente tra i più venduti. Ecco, ci sono dei giorni della settimana, del periodo dell'anno in cui questo particolare presidio ha una maggiore fortuna? Allora, noi in farmacia possiamo vendere anche i farmaci per la disfunzione erettile, soprattutto il venerdì sera. A me capita, anche la mia farmacia è abbastanza di passaggio, il venerdì sera, il sabato pomeriggio e soprattutto la notte del 31 dicembre. La notte di Capodanno abbiamo, c'è un'impennata delle vendite di attizzatori e ovviamente anche di profilattici. No, e anche ovviamente di profilattici e quant'altro. Sì, ci sono determinati. Tommaso, corrisponde alla tua esperienza quello che dice la premiata farmacia, sì, Barletta? Questo confermo. Io, essendo aperto anche la domenica, noto che anche la domenica pomeriggio spesso ci sono vendite cospicue di questi prodotti. Beh, questo è un buon segnale, significa che il paese, la crescita del paese comunque è in buone mani, ecco, a parte tutti i problemi che ci sono. Beh, sì. Sei rimasto senza parole? No, dicevo sì, lo spero. Tu, oggetto del contendere oggi riguardo alla vostra categoria è proprio questo, è la vendita di questi cosiddetti farmaci da banco che comunque, ditemi se sbaglio, nella vostra lettura e intenzione devono sempre aver dietro una persona competente, perché non possono essere venduti a un supermercato o da un giornalaio, perché tutto sommato serve sempre, Cristina, una competenza anche per vendere questo tipo. Sì, sono sicura che il collega avrà altrettanto, per cui non, ovviamente però lui può vendere a tutt'oggi soltanto, ecco, integratori e non i farmaci che vendiamo noi, però sicuramente, essendo un laureato tanto quanto me, lo potrebbe assolutamente fare con estrema competenza. Anche se ci fosse bisogno, vorrei chiarire anche questo dubbio: chi sta dietro il banco di una parafarmacia è un farmacista a tutti gli effetti. Assolutamente, scritto all'albo, sì. Ecco, non è che la parafarmacia è qualcosa di meno. Ma andiamo avanti, 800240024. Abbiamo iniziato dall'aspetto naturalmente più legato alla facezia, ma vorremmo avere una testimonianza dei nostri ascoltatori, qual è il loro rapporto con il farmacista e con le farmacie. Mi piace sentire cosa chiedono, è una cosa un po' scorretta, ma è però io dalla richiesta, dal tono della voce, riesco a risalire al tipo, riesco a risalire a tutto, ed è un'umanità che mi manca. L'altro giorno, la di mano, a un certo punto entra un vecchio signore, sotto braccio a una bella signora, con i capelli un po' color biondo stoppa, la tipica balcanica. Bene, una bella signora dei 40-35 anni. Lui, abbastanza anziano, a un certo punto gli dà. E devi dire, un secondo, un attimo, se ti manchi sulla porta. Guarda la farmacista che fa. Charles 800240024. Non a caso una delle realtà più condivise in rete è proprio il traffico di farmaci attizzanti clandestini, con percentuali di principio attivo sballate, con a volte anche sostanze negative dentro. Uno dei grandi problemi, una della messa in guardia più radicale che viene fatto ai parvenu dell'acquisto in rete è proprio questo: evitate di andare a comprare in rete quello che troveste in farmacia, con un margine di sicurezza sicuramente più elevato. Danilo Maso Masotti, buongiorno. Buongiorno. Danilo Masumasotti è un blogger, autore del libro Umarels, edizioni Pendragon, è uno dei nostri più attivi consulenti quando vogliamo fare un'analisi della parte attiva del paese, della parte cospicuamente visibile del paese e della parte più indignata del paese, che è appunto il mondo degli Umarels. L'Umarel è la farmacia. Umarel è la farmacia. Allora, come i giovani vanno all'Apple Store, l'Umarel va in farmacia, quindi ha le stesse sensazioni, capito? La farmacia è questo, per l'Umarel è questo enorme showroom dove l'Umarel ritrova delle cose molto familiari a lui. Una per tutte, la fila. Ecco, all'Umarel piace fare la fila. Perché si discute, si parla. Si discute, si parla e poi dove ci sono le farmacie, dove non sono munite del bigliettino, gli Umarel si insomma trovano da dire. C'è una divertente contesa su chi, a chi sia il primo della fila. E immaginano complotti. Pensa che stamattina, proprio casualmente, io su Facebook guardavo di cosa parlavano i miei amici, e c'era una mia amica, Daniela, che parlava proprio di vietare l'ingresso alla farmacia prima delle 9 e dopo le 18 agli Umarels, perché la intralciavano. Ecco, quindi cioè, mettere un cartello, vietato l'ingresso alle persone anziane e nulla facenti negli orari di punta. Negli orari pre o dopo lavoro. Anche perché ci sono delle simpatiche attrezzature, corrispondono, come detto giustamente, all'Apple Store, perché come uno va all'Apple Store per maneggiare con l'iPad gratis, quindi giocarci un pochino o guardare le macchine, loro vanno a farsi misurare la pressione e tutte queste cose meravigliose. Esatto, infatti c'è questo macchinario della pressione che di solito, io non so come sia la situazione a Roma, però qua a Bologna c'è proprio il numerino per la pressione, perché se tu hai la fortuna di andare alla mattina trovi delle file incredibili di Umarels che si fanno provare la pressione, perché c'è proprio questa cosa tipo la Wii Fit che loro, gli Umarels, si provano la pressione e la tengono controllatissima. Io non so, sentiamo la rappresentante dell'antica premiata farmacia Sorelle Barletta riguardo a questo affollamento. Questa è la parte del rapporto umano proprio con la clientela, anche una fascia di clientela che richiede una maggiore attenzione. Mediamente in una farmacia di una città grande come Roma accade dover anche occuparsi di questa fetta di umanità che ha bisogno di un aiuto che non è soltanto clinico ma anche psicologico a volte. Sì, in effetti è quello che accade, e peraltro sono anche molto rispettosi, anche se vedono dietro il bancone farmaciste più giovani di loro, sono anche molto rispettosi del ruolo del farmacista. Perché sono l'antica loro, è chiaro. Sì, sono molto molto carini. Nella farmacia dove mi trovo adesso non abbiamo molti, essendo di uffici, i più anziani, per cui non lo sono, sono persone che hanno 62-63 anni, poi vanno in pensione. Cioè sono miei coetanei, adesso non chiamarli anziani. Appunto, e non lo sono, i più grandi sono loro. No, e appunto dico, ho premesso e non lo sono, però dove ho fatto tirocinio ce n'erano parecchi ed erano peraltro appunto i miei clienti preferiti, perché erano molto carini. Tra l'altro in genere il farmacista di quartiere non si fa pagare la pressione, per cui veramente accadeva, c'era anche la fila. Hanno l'idea di qualcosa di gratuito. Sì, sì, e quindi poi erano confortati, quindi il farmacista che controllava la pressione domandavano ma la terapia che mi ha dato il medico, confrontavano, erano contenti se il farmacista di loro fiducia. Ci sono sempre le difficoltà di interpretazione poi delle ricette o delle terapie in cui il cliente un po' più anziano chiede al farmacista una prestazione professionale ulteriore, sì, rispetto a dargli in mano la scatoletta. Esatto, tra l'altro non diverse volte mi capita di scrivere l'orario sulla scatola molto in grande affinché non inforchino gli occhiali, proprio con gli orari. Dove ho fatto tirocinio era una zona popolare della provincia di Catania e c'erano diversi analfabeti e diverse volte disegnavo il sole o la luna se la compressa che devono prendere dovevano assumerla la mattina o la sera, era una costante, oppure col colore, la vede la banda rossa signora, questa va assunta al mattino, questa la sera, e peraltro non parlando in italiano ma in siciliano. Per cui un'ottima integrazione, quello dice Danilo Masumasotti. Sentiamo Lucia velocemente. Buongiorno, io telefono per una cosa che è successa ieri, che mi ha colpito abbastanza, anche in seguito al fatto di aver seguito un attimo le vicissitudini di questa categoria negli ultimi tempi. Ieri mi sono trovata in una fila in attesa di essere servita in una farmacia qui di Livorno, e ho potuto constatare l'estrema professionalità di queste persone, l'estrema pazienza e il tempo che perdono inutilmente, fra virgolette, dietro a persone anziane, badanti, bambini, e senza magari avere una retribuzione, perché per esempio ieri è successo che una persona voleva un determinato farmaco, la farmacista ha detto che non glielo poteva dare, gli ha spiegato perché non glielo poteva dare, questo si è anche arrabbiato, gli ha fatto una parte allucinante. Certo, dicono sempre l'altra farmacia me lo dà lo stesso, anche senza ricetta, questo dicono. Bravissimo, ha detto questo e la farmacista ha risposto: purtroppo siamo in tanti, certe volte siamo troppi, io seguo le regole per il suo benessere. È stata molto tranquilla, molto serena, e in compenso è riuscita a dargli dei consigli. Questo è andato via senza niente, però contento. Non ha perso 30 minuti buoni dietro a questa persona e non ha avuto... Lucia, una sola domanda personale, poi diamo una linea alla bozza. È fidanzata con un farmacista lei? No, non sono fidanzata con un farmacista, ma con un giornalista. Ah beh, cosa ognuno ha le sue abiezioni nella vita e lei ha scelto la peggiore. Grazie. Melog, la realtà condivisa. Questo ragazzo, un dipendente di una farmacia, e sta per perdere il lavoro. Perché? Perché è onesto. Ecco il corpo del reato. 4 sacchi pieni di medicine. Buone, non scadute, già tutte pagate dal Servizio Sanitario Nazionale. Ma pronte per essere buttate. Oh, questa roba l'abbiamo pagata noi, tutti quanti, con le tasse. Ma torniamo al nostro ragazzo, che da oggi, grazie alla sua onestà, sarà disoccupato. Perché stai perdendo il lavoro? Perché nella farmacia dove lavoro non gli interessa nulla della salute del paziente, ma pensano solo ad arricchirsi e a loro torna conto. Io non ho scelto questo lavoro per questo. Cioè cosa succede? Succede che mi costringono a rubare. E come fa una farmacia a rubare? È molto semplice. Ogni farmaco ha una fustella, cioè il codice a barre che sta sul retro e che deve essere attaccato sulla ricetta. I titolari della farmacia dove lavoro staccano questi bollini a molti farmaci che poi in realtà non vendono. Cioè? Cioè si fanno fare molte ricette da medici che secondo me sono 800024 questa mattina parliamo di farmacie e di farmacisti, e per non dare l'impressione di voler soltanto fare una lettura idilliaca, non possiamo non citare un servizio delle Iene che penso che abbia gettato lo sconcerto in molti italiani che l'hanno seguito. Le Iene è una delle più efficaci macchine di scoperta di realtà nascoste. Passa per un programma comico, un programma leggero, ma in realtà fa reali inchieste. Usa sistemi che probabilmente non sono tra i più ortodossi, telecamere nascoste, che in realtà deontologicamente non avrebbero molta ragione di esistere, però porta alla luce delle notizie. Una di queste è la famosa farmacia di Novi Ligure, in cui le signore che la gestivano, anche lì era un'organizzazione tipo familiare, avevano questa pratica del farmaco defustellato. Toglievano l'adesivo con il codice a barre, con dei medici compiacenti che davano a loro pacchi di ricette, quelle rosse naturalmente, di loro reali pazienti che avevano reali patologie, e con quelle fustelle compilavano e naturalmente avevano un rimborso del farmaco. Il farmaco defustellato lo mettevano in vendita per clienti che venivano e non avevano la ricetta, ma la maggior parte di questi farmaci finivano in dei sacchi e venivano buttati via come farmaci scaduti. Quindi c'era, oltre un illecito guadagno, penso cifre abbastanza molto notevoli, apparentemente l'attività di questa farmacista era quella dalla mattina alla sera di staccare fustelle e incollarle su ricette. C'era un grosso spreco di farmaci costosissimi che venivano buttati via, questo è veramente un calcio nei confronti di chi ha bisogno. Ma la cosa più grave che avveniva in questa farmacia, quando venivano chiesti dei farmaci specifici, venivano fatti in maniera molto arraffazzonata. Questa è una cosa che ci ha gettato molto nell'angoscia. Cristina Barletta, che è in studio con me, che è l'amica farmacista che gestisce assieme alla sorella, farmaciste da generazioni, una farmacia a una zona centrale di Roma. Tu hai visto questo servizio delle Iene, ha gettato anche nella vostra categoria l'idea che forse bisogna guardarsi un po' intorno? Sì, già era una... questa in particolare era già nota, infatti, e sono stati molto professionali sul sito delle Iene di Facebook il giorno dopo, l'hanno detto, è già stata chiusa dal NAS e Federfarma Piemonte, peraltro, si è anche in un eventuale processo, si è anche costituita esatto, parte civile, perché insomma la credibilità, la professionalità è stata veramente colpita. A parte l'aspetto della truffa, delle fustelle, che è una cosa possibile, volendo si potrebbe fare. No, assolutamente. No, si potrebbe fare, diciamo, tecnicamente, se c'hai un medico compiacente, dà le ricette, tu ci attacchi la fustella, e in teoria... Sì, purtroppo già si sono sentite, anni fa c'era stato anche lo scandalo di fustelli falsi provenienti dal meridione, da stampati Napoli. Addirittura. Esatto. A me la cosa, questa è la cosa gravissima, a me la cosa soprattutto che mi è apparsa più grave è che facevano appunto le preparazioni galeniche, non tenendo conto dei reali dosaggi, mettendo proprio a rischio la vita delle persone. Già appunto, ripeto, era nota questa farmacia così come anche altre, però è giusto che ogni tanto una sberla... Mi sembra che sia la curatrice del servizio Nadia Toffa delle Iene, è andata una sua collaboratrice, chiedendo un preparato galenico per un cardiopatico in una certa dosaggio. Cos'era? Lo spironolattone è un diuretico risparmiatore di potassio, in commercio c'è o da 25 o da 100, e chiedeva una preparazione, se non mi sbaglio, da 65 mg. Tu come avresti fatto questa preparazione? Avrei acquistato ovviamente dalla ditta di galenici la sostanza e avrei allestito le capsule. Pesando, tecnicamente è una cosa possibile, assolutamente. Fa parte delle vostre sì, funzioni. Uno peraltro, se non vuole acquistare la sostanza, può anche dire: guardi, non la preparo, vado da un altro collega, eccetera. Non che si prende il farmaco, si mette così senza neanche fare una debita proporzione. Ecco, il servizio di Iene le ha fatto fare questa talpa della Iena con un pestello, pestare le delle compresse, esatto, ma tra l'altro anche appunto senza fare le dovute proporzioni. Ha pestato le pastelle, esatto, e ha fatto le pasticche a occhio. Ad occhio, quindi mettendone più del doppio di principio attivo. 150 in più c'era di più, esatto. 150%. Che avrebbe causato anche la morte del che paziente. Che poteva anche causare la morte se eventualmente fosse stata somministrata. Allora, abbiamo al telefono Antonio Annetta, che è un farmacista e, diciamo, probabilmente rappresentante anche della categoria dei farmacisti. Anche lei ha visto questo servizio delle Iene? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ho visto anch'io questo servizio delle Iene e ha detto bene lei, ha gettato lo sconcerto non soltanto nella gente, nell'utenza, nei consumatori, ma addirittura all'interno della nostra categoria, perché siamo rimasti tutti con gli occhi sbarrati, ecco, se mi consente il termine, nel verificare che cosa accadeva all'interno di quella farmacia. L'avete evidenziato molto bene voi, l'ha evidenziato molto bene la collega Barletta, al di là dell'aspetto economico, quello che effettivamente impressiona è questa superficialità nella preparazione estemporanea, la preparazione galenica dei farmaci, che è un po' il fiore all'occhiello delle farmacie. Anche per tradizione i farmaci vengono preparati nel laboratorio della farmacia, ci sono tutta una serie di norme da seguire, si chiamano le norme di buona preparazione, che da alcuni anni sono pubblicati sulla farmacopea ufficiale, che impongono dei criteri di comportamento molto rigidi alla farmacia, ovviamente tutt'altro di quello che diciamo che è il punto, è una pratica che forse sembra un po' in disuso, ma è il punto di differenza fra un farmacista e una persona che sta al banco e ti dà una medicina dietro la presentazione di una ricetta. È bello poter chiedere, lo so perché lo faccio dalle mie sorelle farmaciste di fiducia, chiedere una medicina e sapere loro te la possono fare, te la consegnano una boccetta fatta, c'è un senso di fiducia profonda verso chi ancora è capace di avere questa qualità di confezionarti il farmaco. Non è solo una questione di fiducia, è anche una questione di adattamento terapeutico, cioè il fatto che lei si fa fare in farmacia una preparazione galenica, così come evidenziava il servizio delle Iene con quel diuretico a un dosaggio che non esisteva in commercio, perché come diceva la collega Barletta esiste in due dosaggi differenti, ma non era quel dosaggio che aveva prescritto il medico. Quindi la preparazione galenica diventa l'unico strumento professionale per adattare la terapia di quel soggetto, di quel paziente, a quel determinato farmaco. È fondamentale in questo caso, perché altrimenti a quel dosaggio il paziente avrebbe dovuto fare una serie infinita di calcoli sulle compresse, spezzandole in maniera più o meno artigianale, ma era una situazione ovviamente impossibile da utilizzare. Fermiamoci un secondo, sentiamo due ascoltatori proprio su questa vicenda. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io mi sente? Sì, certo. No, siamo il Danovi Ligure, combinazione l'epicentro di questa vicenda. Lei conosceva questa farmacia? Ma guardi, nonostante sia vicina all'abitazione dove io risiedo, non mi ero mai rivolto a loro. Però le dico, la cosa che ci sorprende... Ma se ne è parlato, diciamo, in città se ne è parlato di questo episodio? Assolutamente, ma in realtà in città si stanno aspettando, secondo me, anche gli sviluppi, perché la vicenda è solo agli inizi. Ma le persone sono a piede libero ancora, le titolari? Ma questo io francamente non lo so. Quello che però posso dire è che siamo anche tutti esterrefatti di questo. I farmacisti sono tutti esterrefatti, Federfarma è esterrefatta. Noi invece come cittadini siamo esterrefatti che le farmacie comunali non hanno mai utili, mentre le farmacie private hanno enormi utili, cioè il farmacista è nell'immaginario. Lei è un farmacista realtà. Comunale? No, io faccio un'altra professione. Ah, com'è si pone? No, mi incuriosisce sapere come si pone questo problema. Mi pongo questo problema perché il debito pubblico è composto in gran parte dal debito sanitario. Se noi scopriamo che il debito sanitario fosse anche costituito da farmaci buttati, in discarica, cioè, capisce? Perché qui la filiera, noi siamo andati nella... Beh, quello sarà un episodio limite, penso che... No, guardi, io... Lei dice che è diffuso. Ma io invece ho la sensazione che queste signore qui siano andate oltre il limite. La mia sensazione è che in realtà bisognerebbe indagare un po'. Ecco, lei dice se è un comportamento base, cioè loro hanno voluto esagerare. Sentiamo Luca, buongiorno. Lei lavora in una farmacia. Sì. Allora, io ponevo un altro problema. Lei è farmacista, problema, diciamo sì. Farmacista, sì. Io sono farmacista al banco. Allora, io le posso dire che in tutte le farmacie che ho lavorato ci sono due tipi. Si può lavorare in due modi. Si può fare lo scontrino fiscale e lo scontrino di cortesia. Lo scontrino di cortesia è totalmente in nero. Io le posso dire che tutte le farmacie, quando lavorano con gli anziani, fanno degli scontrini di cortesia. L'anziano non sa se è fiscale o di cortesia. Lo scontrino di cortesia è in nero e tutti i giorni questa gente qui fa dai 1.000 ai 1.500 euro in nero, che incassano senza pagare una lira di tasse. Questo lo dice lei come farmacista, lei non lo fa naturalmente. Ma lo devo fare perché il titolare mi dice di farlo. Cioè, lei sta in questo momento dando notizia di un illecito, cioè il suo capo gli dice di fare lo scontrino di cortesia, quindi il suo capo è un evasore fiscale a tutti gli effetti. Si prende la responsabilità di quello che dice, perché sa, spesso quando fanno queste telefonate poi qualcuno ci chiama e ci dice questa persona vorremmo saperne di più. Velocemente, Cristina Barletta, rispetto a quello che dice Luca, poi sentiamo anche il tuo collega. Questo qua mi sembra quasi assurdo, perché è un reato, come lo fanno tutte le categorie. Siamo lo fanno tra anche le categorie proprio meno evasori del fisco, si parla di un 2-3%, anche perché lavorando in fattura, a meno che, allora vuol dire che già c'è un precedente illecito, hanno acquistato merce non fatturata. Ecco, le medicine che ti entrano dovrei giustificarle. Esatto, quindi hanno le fatture di acquisto, ti fai un calcolo più o meno quanto è il margine di acquisto ed ecco là il tuo ricavato su quello per pagare le tasse, quindi 1.500 al giorno è impossibile. Allora fermiamoci un attimo, teniamo ancora l'ascoltatore al telefono e mandiamo le informazioni del traffico e riprendiamo questo problema, visto che è stato sollevato un problema, abbiamo iniziato scherzando con Verdone e preservativi, ci troviamo di fronte a un problema che è giusto sviscerare con i mezzi che abbiamo a disposizione questa mattina. Melog, la realtà condivisa. Sono riuscito a piare cortisone, insulina, tutta roba svizzera costosissima. Se rimedio 50.000, quante so per te? Come al solito, no? Dottor Magalini? Dottore? Dottor Magalini, scusi. Decide. Guardi, queste sono tutte medicine che non so se lei... Sia buono, dottor, questa è tutta roba che ho preso qui da voi. Quando c'è sua sorella che fa il turno di notte, vede? È vostra, c'è la busta col nome. Buona nonna mia. È morta. Mi dispiace. È morta tenendomi la mano. Se mi dà la mano pure lei. Tanto ormai sta roba qui non gli serve più. Invece noi ci avevamo tante spese per il funerale. Per carro, i cavalli, quelli costano, lo so, io lo so. Che età ci aveva? Su per giù l'età vostra. Allora, Febbre da cavallo, che è un film cult che ancora in certe case romane lo riguardano a loop settimana dopo settimana, che parla appunto del demone del gioco, un fantastico film con Gigi Proietti e Enrico Montesano come protagonisti, già citava qualcosa che era legato comunque al traffico illecito di farmaci. Montesano, che lavora in un ospedale, ruba i farmaci in ospedale, poi va in farmacia, piangendo perché servivano soldi per giocare a cavalli, dicendo che era morta la nonna, aveva queste medicine in casa, se il farmacista impietosito gliele ricomprava, cosa che non credo sia possibile. Noi in questa mattinata che stavamo parlando della figura del farmacista, delle farmacie, abbiamo avuto una telefonata a un certo punto di un ascoltatore farmacista che ci ha parlato di un illecito che si consumerebbe nella farmacia dove lavora lui. Volevo, prima di ridare la parola appunto a Luca, parlare con Antonino Annetta, che avevamo lasciato al telefono, che anche lui è un farmacista e si occupa naturalmente anche in questo caso di rappresentare la categoria dei farmacisti. Antonino Annetta, rispetto a quello che ha detto il suo collega, è una procedura che è così semplice, così facile da fare, o presupporrebbe, come dice appunto Cristina Barletta, dottoressa Barletta, che un farmacista che deve fare finti scontrini, deve avere anche merce non regolarmente fatturata e registrata nella sua farmacia? Ma guardi, non solo quello che dice la dottoressa Barletta risponde a verità e quindi ci sarebbe quella difficoltà, ma deve considerare che quando lei va in un qualsiasi esercizio commerciale, al bar o al ristorante, gli lascia uno scontrino, lei con quello scontrino non ci fa nulla, quindi molto probabilmente lo butta dopo qualche minuto, come facciamo tutti. Con lo scontrino che gli viene rilasciato in farmacia, lei va e opera una detrazione fiscale di quello che è l'importo dello scontrino, certo. Se si tratta di farmaci, quindi voglio dire, rimane non solo la prova provata di uno scontrino di cortesia, perché poi ovviamente il paziente lo allega alla dichiarazione dei redditi, e quindi mi sembra una procedura voglio dire alquanto strana. Non a caso, se lei va a verificare tutte le statistiche pubblicate anche in questi ultimi tempi dai giornali, le farmacie sono riportate al secondo posto tra coloro che pagano le tasse, chiamiamoli così. Allora, qui, perché è più difficile evadere, commercio così delicata come i farmaci, esatto, che saranno classificati in ogni piccola parte, ci sono grandi difficoltà. Sentiamo ancora velocemente Luca per concludere rispetto a quello che avete detto voi. Luca era il farmacista che ci aveva detto questa vicenda qua. Come spiega che possa avvenire questa cosa, Luca? I farmaci che non vengono scontrinati, come vengono in qualche maniera poi giustificati? Io in tanti anni che lavoro in farmacia non ho mai visto un controllo. Ah, perché nessuno controlla, questo è il fatto. È impossibile. A Roma abbiamo diversi controlli del NAS, eccetera, ogni due anni e quant'altro. Non so in quale landa sperduta il collega si trovi a lavorare, francamente. Va bene. E la signora che sta parlando è una dottoressa? Sì, è una sua collega, una dottoressa, sì. Lei non ha mai venduto un farmaco senza fare uno scontrino? Ma sta scherzando? No, non sto scherzando, perché mi sembra che è una prassi che fanno tutte le farmacie. Prima di dire fanno tutte, guardi, è un po' io non voglio fare adesso il difensore dei farmacisti, ma potrebbe dire anche a me: hai mai omesso un pagamento che ti hanno fatto? Direi molto difficile, perché chi mi paga per una prestazione professionale, naturalmente. Io ho lavorato in tante farmacie, non sì, una sola, e il 90% erano così. Lo dicono proprio loro. Sì, lei porta la sua testimonianza, io non ho motivo di dire che la sua esperienza sia questa. Naturalmente le persone che svolgono correttamente il proprio lavoro e sono controllate dicono che loro non lo fanno, poi che qualcuno lo faccia non lo posso escludere a priori, ogni categoria professionale naturalmente ha dei margini di evasione. Dalle statistiche viene fuori che i farmacisti sono quelli che evadono meno degli altri, perché c'è una maggior percentuale di controlli. Poi abbiamo visto anche il caso di Novi Ligure, è chiaro, portano via sacchi di farmaci finti scaduti, c'è sempre il motivo, poi la maniera di aggirare la legge, però i numeri dicono che sono quelli che lo fanno meno degli altri, che per loro è più difficile, non dico che sono più buoni. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo dare la mia testimonianza sui farmaci venduti in nero. Io mi reco, diciamo, ogni mese per conto mio e anche di amici a comprare Levitra in farmacia, sa di cosa parlo, no? Tipo sì. Magari gente si vergogna e vado prendo le commissioni. Ma quindi lei lo fa per gli altri che si vergognano? Sì, prendo 4-5 scatole al mese, una scatola costa 50 euro, quindi sono dalle 2,50 a 300 euro, e mi reco in 4-5 farmacie che conosco, me le vendono per ricetta, senza scontrino. E al nero? Sì, tranquillamente. Ma scusa, Cristina Barletta, si possono vendere farmaci al nero? Com'è possibile? Non lo so, mai sentita una cosa del prova, genere. Scusatemi, fate la prova, da una farmacia, chiedete il Levitra, i farmaci, e vedete come ve lo danno. Senza scontrino? Senza scontrino, perché non c'è ricetta, non c'è niente. È facile, basta andare in farmacia e provare. Quelle comunali non le fanno, che sono recato a volte in farmacia comunale, non lo danno. quelle private tranquillamente. Ma lei mi ha chiesto lo scontrino? Io non l'ho chiesto perché già è imbarazzante chiedere questi farmaci, quindi se li danno paghi. Guardi, io questo gioco al massacro francamente non ci sto, è impossibile. Signora, faccia la prova, vada. Sì, però guardi, come sono sul territorio, prova. Ma come le sta dicendo, come sta dicendo la dottoressa? Chi vende un farmaco senza chiedere lo scontrino, evidentemente quando ha acquistato questo farmaco già ha compiuto un illecito, perché lui ce l'ha registrato ogni a capello. Non vengano comprati a nero. Io non lo so, però voi provate, andate a se uno li compra, si compra su internet dai cinesi, bisogna vedere poi cosa non è roba. È quello buono, è quello che funziona. C'è là dietro tutto, è della Bayer. Perfetto. Lei... Ma lo sanno tutti. Nessuno va dal medico a farsi fare la ricetta per il Levitra. Io vi faccio un esempio, il Levitra. Però tutti vanno in farmacia a comprarlo, la maggior parte. Emerge che alcuni ascoltatori vadano a comprare dei farmaci per cui ci vorrebbe la ricetta e farmacisti che non compiono il loro dovere glielo danno senza ricetta. Mi sembra molto difficile, perché adesso non è che voglio offendere, ma la mia amica presente, in cui sono amico, non mi ha mai dato nemmeno una virgola di cose senza ricetta, pur essendo amici, senza scontrino. E senza scontrino senza soprattutto scontrino. Però dipende. Anna Rita. Buongiorno, sì. Io ho una piccolissima puntualizzazione, riguarda l'affermazione del suo ospite riguardo al fatto che noi utenti avremmo interesse ad avere questo scontrino, quindi non è possibile che questo scontrino non venga dato. Ora, a me personalmente non è mai capitato di non avere lo scontrino in farmacia, devo essere corretta, però devo dire che per quanto attiene lo scontrino in cui compare il codice fiscale, è uno scontrino che noi utenti otteniamo dando la tessera sanitaria. Certo. E non sempre si dà la tessera sanitaria, e quindi così lascia un sospeso, insomma, non è un automatismo così come voleva essere fatto. Sì, ma guardi, adesso non sono il paladino dei farmacisti, ma avviene in qualsiasi negozio, in qualsiasi esercizio, lo si vede, i blitz stanno facendo. Guardi, mediamente la farmacia, secondo me, è vero che è più corretta. Io penso questo, perché io le devo dire che personalmente sono estremamente attenta a questo fenomeno qui a Roma, e ha un repertorio vastissimo di trucchetti, giochetti, malumori delle persone che, come dice lei, effettivamente così hanno purtroppo una discreta ritrosia a darti questo scontrino dal commerciante che addirittura ti propone lo scontrino di un altro, cioè a questi livelli, ma è lo stesso. Chiudiamo velocemente con Annetta, abbiamo proprio 30 secondi. Antonio, Annetta, ma siamo in sigla? Sì, guardi, quello che dice la signora è vero, cioè nel senso che dovrebbe essere il paziente a dire: guardi, io voglio usufruire della detrazione fiscale, le offro la mia tessera sanitaria o il mio codice fiscale, perché diventa impossibile che sia la farmacia a chiedere a ogni paziente: lei vuole usufruire della detrazione fiscale, mi dia... A me devo dire che normalmente viene chiesto, mi fermo qua perché sennò la sigla ci sfuma. A domani.